ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Nei dintorni del cimitero non andavo soltanto per ozio, in cerca di solitudine e di racconti. Era quello l'unico luogo, nello spazio consentito, dove non ci fossero case e qualche albero variasse la geometria dei tuguri. Perciò lo scelsi come primo soggetto dei miei quadri. Uscivo, quando il sole cominciava a declinare, con la tela ai colori. Piantavo il mio cavalletto all'ombra di un tronco d'ulivo o dietro il muro del cimitero e mi mettevo a dipingere. La prima volta, pochi giorni dopo il mio arrivo, questa mia occupazione parve sospetta al brigadiere, che ne avvertì subito il podestà e mandò, ad ogni buon conto, uno dei suoi uomini a sorvegliarmi. Il carabiniere rimase impalato due passi dietro di me, a contemplare il mio lavoro, dalla prima all'ultima pennellata. È noioso dipingere con qualcuno dietro le spalle, anche quando non si temono le malvagie influenze, come pare avvenisse a Cézanne. Ma che facessi, non ci fu verso di smuoverlo. Aveva la sua consegna. Soltanto il suo stupido viso mutò a poco la sua espressione indagatoria in una sempre più interessata. Ed egli finì per chiedermi se sarei stato capace di fare un ingrandimento a olio della fotografia della sua mamma morta, che è, per un carabiniere, il massimo punto d'arrivo della pittura. Le ore passavano, il sole calava, le cose prendevano l'incanto del crepuscolo, quando gli oggetti pare risplendano di luce propria, interna, non comunicata. Una grande luna esile, trasparente, irreale, stava sopra gli ulivi grigi e le case, nell'aria rosata, come un osso di seppia corroso dal sale sulla riva del mare. Ero, in quel tempo, molto amico della luna, perché per molti mesi, chiuso in una cella, non avevo veduto la sua faccia, e il ritrovarla era per me un piacere nuovo. Perciò la dipinsi, in segno di saluto e di omaggio, rotonda e leggera in mezzo al cielo, con grande stupore del carabiniere. Ma già salivano, per controllare il mio lavoro, i dioscuri padroni del luogo, il brigadiere con la sciabola, azzimato e contegnoso, e il podestà, tutto sorrisi, cerimonie e affettata benevolenza. Don Luigino era, naturalmente, un intenditore e desiderava che io me ne accorgessi e non lesinò le sue lodi alla mia tecnica. E poi il suo orgoglio patriottico era lusingato che io avessi trovato Galliano, il suo paese, degno di essere dipinto. Approfittai del suo compiacimento per insinuargli che mi sarebbe stato necessario, perché potessi ritrarre le bellezze del luogo, potermi allontanare un po' di più dall'abitato. Il podestà e il brigadiere non volevano impegnarsi esplicitamente a questa infrazione ai regolamenti, ma a poco, nelle settimane seguenti, si venne a una specie di tacito accordo per cui avrei potuto, e soltanto per dipingere, dilungarmi di un 200 o 300 metri al di là delle case. Più che il rispetto per l'arte, mi valsero queste concessioni gli intrighi e il desiderio di compiacermi di donna Caterina e il terror panico delle malattie che si annidava continuamente nell'animo di Don Luigino. Don Luigino stava benissimo, se non si conti un certo squilibrio ormonico che gli si manifestava più che altro nel carattere, insieme infantile e sadico, e che non gli portava altro inconveniente fisico che la voce di falsetto e una certa tendenza alla pinguedine. Per il resto crepava di salute, ma, per mia fortuna, egli era continuamente in preda alla fobia di essere malato. Oggi aveva la tubercolosi, domani il mal di cuore, dopodomani l'ulcera di stomaco. Si tastava il polso, si provava la temperatura, si guardava la lingua allo specchio e per tutti questi mali, ogni volta che mi incontrava, aveva bisogno di essere rassicurato. Il malato immaginario aveva finalmente un medico a sua disposizione. Andassi dunque qualche volta a dipingere un poco più in là, ma non troppo spesso, e non così lontano che non mi potessero vedere. Di mia iniziativa e a mio rischio, perché gli aveva molti nemici che avrebbero potuto scrivere delle lettere anonime a Matera, mettendolo in cattiva luce per questa concessione. Quello che io guadagnavo di spazio e di respiro non era molto, perché il paese è tutto cinto di burroni e ci se ne esce soltanto, oltre che dalla parte del cimitero, che non avrei potuto superare perché al di là si scende sull'altro versante e sarei uscito di vista, per due soli sentieri. L'uno è quello in basso, che correndo sulla cresta delle forre a saliscendi conduce da Gagliano a Gaglianello, e su questo avrei potuto andare fino al timbone della Madonna degli Angeli, al luogo dove il diavolo era apparso al vecchio Becchino, poco lontano dalle ultime case del paese. Di qui si stacca sulla destra un sentieruolo largo pochi palmi che scende a zigzag ripidissimi nel fondo del precipizio, 200 metri più in basso. Questo è il passaggio obbligato e pericoloso che ogni giorno quasi tutti i contadini scendono con l'asino e la capra per raggiungere i loro campi là in basso verso la Valle dell'Agri, e risalgono la sera con i loro carichi d'erbe e di legna come dei dannati. L'altro sentiero è in alto, all'altro capo del paese. Parte a destra della chiesa, vicino alla casa della vedova, e conduce in pochi passi a una piccola sorgente che fino a pochi anni fa era la sola risorsa del paese. Un filo d'acqua esce da un tubo arrugginito fra due pietre e cade in un trogolo di legno, dove le donne talvolta vanno a lavare. Di cui trabocca e, senza nessuno scarico, si impantana nella terra, paradiso delle zanzare. Il sentiero continua per un breve tratto di campi di stoppie con qualche magro ulivo e si perde in un complicato labirinto di monticciuoli e di buche di argilla bianca che si rompe improvviso verso il Sauro su un altro precipizio. Qui passeggiavo e dipingevo, e qui incontrai un giorno una vipera, avvertito in tempo dall'abbaiare furioso del mio cane. Questa strana e scoscesa configurazione del terreno fa di Gagliano una specie di fortezza naturale da cui non si esce che per vie obbligate. Di questo approfittava il podestà in quei giorni di cosiddetta passione nazionale per aver maggior folla alle adunate che gli piaceva di indire per sostenere, come egli diceva, il morale della popolazione, o per fare ascoltare alla radio i discorsi dei nostri governanti che preparavano la guerra d'Africa. Quando Don Luigino aveva deciso di fare una adunata, mandava la sera per le vie del paese il vecchio banditore Becchino con il tamburo e la tromba, e si sentiva quella voce antica gridare 100 volte davanti a tutte le case su una sola nota alta e astratta: domattina alle 10 tutti in piazza davanti al municipio per sentire la radio, nessuno deve mancare. A domattina dovremo alzarci 2 ore prima dell'alba, dicevano i contadini che non volevano perdere una giornata di lavoro e che sapevano che Don Luigino avrebbe messo alle prime luci del giorno i suoi avanguardisti e i carabinieri sulle strade, agli sbocchi del paese, con l'ordine di non lasciare uscire nessuno. La maggior parte riusciva a partire per i campi nel buio prima che arrivassero i sorveglianti, ma i ritardatari dovevano rassegnarsi ad andare con le donne e i ragazzi della scuola sulla piazza, sotto il balcone da cui scendeva l'eloquenza entusiastica ed uterina di Magalone. Stavano là, col cappello in mano, neri e diffidenti, e i discorsi passavano su di loro senza lasciar traccia. I signori erano tutti iscritti al partito, anche quei pochi come il dottor Milillo, che la pensavano diversamente soltanto perché il partito era il governo, era lo Stato, era il potere, ed essi si sentivano naturalmente partecipi di questo potere. Nessuno dei contadini, per la ragione opposta, era iscritto, come del resto non sarebbero stati iscritti a nessun altro partito politico che potesse per avventura esistere. Non erano fascisti, come non sarebbero stati liberali o socialisti o che so io, perché queste faccende non li riguardavano. Appartenevano a un altro mondo e non avevano senso. Che cosa avevano essi a che fare con il governo, con il potere, con lo Stato? lo Stato, qualunque sia. Sono quello di Roma. E quelli di Roma, si sa, non vogliono che noi siamo cristiani. C'è la grandine, le frane, la siccità, la malaria e c'è lo Stato. Sono dei mali inevitabili. Ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Ci fanno ammazzare le capre, ci portano via i mobili di casa e adesso ci manderanno a fare la guerra. Pazienza. Per i contadini lo Stato è più lontano del cielo, è più maligno, perché sta sempre dall'altra parte. Non importa quali siano le sue formule politiche, la sua struttura, i suoi programmi, i contadini non li capiscono, perché è un altro linguaggio da loro e non c'è davvero nessuna ragione perché li vogliano capire. La sola possibile difesa contro lo Stato e contro la propaganda è la rassegnazione. La stessa cupa rassegnazione, senza speranza di paradiso, che curva le loro schiene sotto i mali della natura. Perciò essi, come giusto, non si rendono affatto conto di che cosa sia la lotta politica. È una questione personale di quelli di Roma. Non importa ad essi di sapere quali siano le opinioni dei confinati e perché siano venuti qua giù, ma li guardano benigni e li considerano come propri fratelli perché sono anch'essi, per motivi misteriosi, vittime del loro stesso destino. Quando, nei primi giorni, mi capitava di incontrare sul sentiero fuori del paese qualche vecchio contadino che non mi conosceva ancora, egli si fermava sul suo asino per salutarmi e mi chiedeva: «Che sei? A dove vades? Chi sei? Dove vai?» «Passeggio», rispondevo. «Sono un confinato, un esiliato». I contadini di qui non dicono confinato, ma esiliato. «Un esiliato. Peccato. Qualcuno a Roma ti ha voluto male». E non aggiungeva altro, ma rimetteva in moto la sua cavalcatura guardandomi con un sorriso di compassione fraterna. Questa fraternità passiva, questo patire insieme, questa rassegnata, solidale, secolare pazienza è il profondo sentimento comune dei contadini, legame non religioso ma naturale. Essi non hanno né possono avere quella che si usa chiamare coscienza politica, perché sono in tutti i sensi del termine pagani, non cittadini. Gli dèi dello Stato e della città non possono avere culto fra queste argille, dove regna il lupo e l'antico nero cinghiale, né alcun muro separa il mondo degli uomini da quello degli animali e degli spiriti, nelle fronde degli alberi visibili dalle oscure radici sotterranee. Non possono avere neppure una vera coscienza individuale, dove tutto è legato da influenze reciproche, dove ogni cosa è un potere che agisce insensibilmente, dove non esistono limiti che non siano rotti da un influsso magico. Essi vivono immersi in un mondo che si continua senza determinazioni, dove l'uomo non si distingue dal suo sole, dalla sua bestia e dalla sua malaria, dove non possono esistere la felicità vagheggiata dai letterati paganeggianti, nella speranza, che sono pur sempre dei sentimenti individuali, ma la cupa passività di una natura dolorosa. Ma in essi è vivo il senso umano di un comune destino e di una comune accettazione. È un senso, non un atto di coscienza. Non si esprime in discorsi o in parole, ma si porta con sé in tutti i momenti, in tutti i gesti della vita, in tutti i giorni uguali che si stendono su questi deserti. Peccato, qualcuno ti ha voluto male. Anche tu dunque sei soggetto al destino. Anche tu sei qui per il potere di una mala volontà, per un influsso malvagio, portato qua e là per opera ostile di magia. Anche tu dunque sei un uomo, anche tu sei dei nostri. Non importano i motivi che ti hanno spinto nella politica, nelle leggi, nelle illusioni della ragione, non c'è ragione né cause ed effetti, ma soltanto un cattivo destino, una volontà che vuole il male, che è il potere magico delle cose. Lo Stato è una delle forme di questo destino, come il vento che brucia i raccolti e la febbre che ci rode il sangue. La vita non può essere verso la sorte. Che pazienza e silenzio. A che cosa valgono le parole? E che cosa si può fare? Niente. Corazzati dunque di silenzio e di pazienza, taciturni e impenetrabili, quei pochi contadini che non erano riusciti a fuggire nei campi stavano sulla piazza alla dunata. Ed era come se non udissero le fanfare ottimistiche della radio, che venivano di troppo lontano, da un paese di attiva facilità e di progresso, che aveva dimenticato la morte, al punto di evocarla per scherzo, con la leggerezza di chi non ci crede. Ne conoscevo ormai molti di questi contadini di Gagliano, che a prima vista parevano tutti uguali, piccoli, bruciati dal sole, con gli occhi neri che non brillano, e non sembra che guardino come finestre vuote di una stanza buia. Alcuni li avevo incontrati nelle mie breve passeggiate o mi avevano salutato dall'uscio delle case la sera, ma la maggior parte erano venuti a cercarmi perché li curassi. Mi ero dovuto rassegnare a questa nuova funzione di medico. Ma soprattutto nei primi giorni, come avviene ai principianti, avevo grandissime preoccupazioni per la sorte dei miei malati e per il senso fastidioso della mia pochezza. La loro straordinaria, ingenua fiducia chiedeva un ricambio. Mi avveniva, a mio malgrado, di assumere su di me i loro mali, di sentirli quasi come una mia colpa. Potevo, per fortuna, valermi di una sufficiente preparazione di studi, ma mi mancava la pratica, i mezzi di ricerca e di cura, ed ero, debbo confessarlo, lontanissimo dalla mentalità scientifica fatta di freddezza e di distacco. Vivevo, si può dire, in continue angosce. Tanto più cara e preziosa mi riuscì perciò una breve visita di mia sorella, donna di grande intelligenza e operosa bontà, e per di più medico valentissimo, che mi portò dei libri, dei trattati sulla malaria, delle riviste, degli strumenti, delle medicine, e mi incoraggiò e consigliò nelle mie incertezze. Avevo saputo della sua venuta inaspettata da un telegramma giunto appena in tempo perché mandassi l'automobile a prenderla alla fermata dell'autobus al bivio sul Sauro. Era questa macchina l'unica esistente a Gagliano, una vecchia 509 sgangherata. Apparteneva a un meccanico, un americano, un uomo grande, grosso e biondo con un berretto da ciclista, noto in paese per una sua gigantesca particolarità anatomica, simile a quella attribuita dalla leggenda in Francia al presidente Herriot, che rendeva forse desiderabili ma certamente pericolosi alle donne i contatti con lui. Nonostante questo, o forse appunto per questo, gli si attribuivano molti successi nella sua lista di Don Giovanni Paesano, ed era difficile alle sue disgraziate amanti tenere a lungo celati alla gelosia di sua moglie e alla curiosità divertita del paese i loro illeciti amori. La macchina l'aveva comprata con i suoi ultimi risparmi di New York, ripromettendosene grandi guadagni perché rispondeva a una reale necessità pubblica. Ma non faceva che uno o due viaggi alla settimana, e quasi unicamente per accompagnare il podestà nelle sue corse alla prefettura di Matera o per qualche servigio ai carabinieri o all'ufficiale esattoriale, e di rado andava a Stigliano per accompagnare qualche malato o per ritirare delle merci.